Tempo di Sport con Carlo Genta. Ciao a tutti, Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia. Prima di tuffarci nel fango, come oggi inevitabile, almeno prendiamo una boccata d'ossigeno ricordando la giornata di ieri, almeno per la parte meravigliosa, quelle tre medaglie che poi sono state infangate dalla notizia serale, e appunto di fango si tratta. Dunque, le voci dei medagliati. Mancava questa, solo quello, sono contentissimo sicuramente. All'inizio così ero tirato, poi sono riuscito a stare tranquillo l'ultima ora, a dire vabbè dai, me la gioco tutta, però sarà come le altre volte, no? Allora sono riuscito a rimanere abbastanza tranquillo, poi sapevo che c'era qua la mia famiglia, mia moglie, mia figlia Gaia, quindi sono contentissimo, mancava questa medaglia, solo questa. Avete visto tutto, il bacio al podio è stato un gesto che l'ho voluto baciare prima di montarci, perché praticamente gli volevo dare quello che mi avrebbe dato lui dopo poco. Non solo questi 10 giorni, ma questi 4 anni sono stati veramente lunghi, ci ho messo veramente tutto me stesso in questo periodo così lungo. Io volevo venire qui per fare tutto quello che potevo al massimo delle mie capacità, poi se in più arrivavano le medaglie, vabbè, meglio ancora, però ho fatto quello per cui ero venuto, ovvero non lasciare niente al caso, andare via senza pianti. Io ci ho messo veramente tutto. Oggi la finale non era facile, perché comunque quando entri con un vantaggio così hai tutto da perdere, c'erano già gente che dava per scontato l'oro. Io, insomma, quando sei lì che ti muovi di fronte al bersaglio, niente è scontato, soprattutto in piedi a 50 metri. Morandi, Fabrizi, Campriani, bronzo, argento e oro di ieri. Restiamo ancora per un attimo fuori dal fango con la cronaca, con il nostro inviato Dario Ricci. Ciao Dario. Sì, buongiorno Carlo. Dai Tondorni, settima in finale, questo è lo straordinario risultato ottenuto da Josefa Idem, cioè squalificata alla finale col settimo tempo nella canoa K1 500 metri, ottava finale olimpica, 48 anni, ottava olimpiade, insomma, numeri che dicono tutto e qualcosa in più. Aggiunge ora il mio ospite, che è il presidente della Federcanoa, Luciano Bonfiglio. Presidente, un'impresa oggi, eh? Se posso permettermi di correggere, che non è il settimo tempo, è la prima della terza semifinale, perché il vento oggi ha fatto un po' le bizze e ho avuto un po' paura, perché quando è partita lei il vento era proprio calato e quindi o vinceva o rischiavamo di rimanere fuori. Invece è arrivato questo straordinario risultato, adesso presidente si può sognare? Come ho detto, io sogno sempre ad occhi aperti, perché poi per realizzarli bisogna star svegli, e Josef è un esempio di come sta sveglia ed è presente specialmente negli appuntamenti più difficili e importanti, quindi perché no? Ringraziamo il presidente Bonfiglio, preso grazie. Al volo tra un grazie pulmino anche. E l'altro. Grazie presidente Bonfiglio. Dario Ricci, tu stai lì, perché adesso ci tuffiamo insieme nel fango. Vedo già in linea un ospite importante, che è Aldo Cazzullo, inviato del Corriere della Sera e penna illustre del Corriere della Sera. Ciao Aldo, grazie. Buongiorno. Leggo un paio di passaggi di ciò che scrivi tu oggi. Dal titolo Dama di Svizzera, eroe fragile che non accetta il tempo che passa, scrivi: c'è però una lezione da trarre da questa storia che non riguarda solo lo sport ma la vita pubblica e anche la nostra quotidianità. Se davvero il miglior atleta italiano non ce l'ha fatta, è un fallimento che non riguarda soltanto lui. Proprio per questo alla condanna non potrà che seguire la pietà, perché siamo tutti affacciati sull'abisso e chi vi cade, fosse stato anche un eroe fino a qualche giorno prima, paga il prezzo della nostra stessa fragilità. Questo è quello che pensi tu. Io penso che sia un piccolo truffatore come altri. Penso che la storia di quelle due belle faccine pulite da montanari di confine sia stata sporcata, almeno per quanto riguarda ovviamente soltanto Alex Schwarzer, e a questo punto io non riesco a credere ad una sola parola tra quelle che dice. Dico soltanto che almeno ha avuto la decenza di non venderci, come tanti altri hanno fatto, i non c'entro, non sapevo, mi affido alla giustizia divina, mi hanno avvelenato l'acqua, ho mangiato troppa carne, ho bevuto il tè alla coca preso da mia zia in Colombia, perché troppe ne abbiamo sentite di queste stronzate, Aldo. Sì, appunto, vedi che hai giustamente condannato, però nello stesso tempo delle tue parole affiora quella pietà che io personalmente provo, nel senso che è chiaro che la sua prima versione di fatti andrà verificata, lui si contraddice, non può far tutto da solo, evidente, però io credo che invece è vero che l'oro di Pechino sia pulito, anche perché i controlli sono frequenti, seri, quello in piedi, quindi avrebbero beccato anche allora se avesse usato sostanze dopanti anche allora. Mm. La mia idea è che lui, 4 anni dopo, 4 anni non sono pochi per un mangiatore, per una persona che è sottoposta a uno stress fisico, psichico così forte, 4 anni dopo lui non era nelle condizioni, Pechino non era nelle condizioni di difendere l'oro, e ha avuto paura, ha commesso un errore gravissimo, ovviamente un altro, potrei dare tu, ha avuto almeno il buon senso, il coraggio di riconoscerlo, di non nascondersi dietro delle scuse ridicole. È chiaro che detto questo la cosa è caduta gravissima, perché macchia tutta la nostra spedizione, certo, certo. Non è una scelta qualsiasi. L'atletica italiana a Londra sta facendo veramente pena, non esiste, abbiamo avuto un siepista che ha fatto 8,40 sui 3.000 siepi con tempo amatoriale, nel 10.000 il nostro concorrente MU è stato doppiato, sì. Non si prende di avere i Mennea e le Semeoni, però almeno sono un Lambruschini, un Panetta, invece no, neanche quello, l'unico atleta di punta è Franza. Questo penso resterà proprio come una specie di lettera scarlata sulla nostra Olimpiade. Possiamo sì. vincere tutte le medaglie che vogliamo, no? Quello che ho cercato di dire nel pezzo è proprio quello, che bisogna anche inquadrare questa vicenda nel suo contesto umano. Questo è un grande atleta, non ce l'ha fatta tenere i ritmi nel tempo, ha cercato di una scorciatoia, ha pagato, deve pagare tutto che paghi, però attenzione che questa fragilità non è soltanto presentare gli spazzari, in questo senso non riconosco la tua dimensione montanaccia. Stazza comunque ha una bella storia, aveva una bella storia personale, rappresenta un po' la prima generazione di altoatletismo sul tirolese, che si voglia, si sente pienamente italiano. A maggior ragione quello che è accaduto è qualcosa che fa male a lui, all'atletica, ma poi lo fa tutti quanti noi. Sì, anche perché erano, almeno era, io li metto insieme, lui e Carolina Kostner, che ripeto, nulla c'entra in questa vicenda, erano gli anti, no? Rispetto ai vari Pellegrini, Magnini, calciatori, eccetera, eccetera, antidivi, antipersonaggi, antichi se vuoi, con il loro modo di porsi. E anche per questo fa particolarmente male una cosa del genere. È vero, mentre dall'altra parte ormai il nuoto azzurro era entrato a pieno titolo nel business, nella Nerocalchi, magari anche al di là della volontà dei protagonisti. Sì, la marcia aveva mantenuto una sua dimensione quasi epica, contadina, forse si può anche dire montanare. E a maggior ragione la storia d'amore con Carolina Costa era qualcosa che aveva emozionato sensibilità anche strane allo sport, anche gente che non sa neanche cosa sia 50 km di marcia, si appassionava a questa storia, qualcuno dove si riconosceva in questo sogno di giovinezza, di pulizia, di semplicità. E anche per questo è una storia che fa molto male. Certo. Non è una storia che finisce pure oggi, è una storia che purtroppo resterà legata alle Olimpiadi di Londra 2012 per quanto riguarda la nazionale italiana. Ma a questo punto io spero solo che, anche se ti ripeto, faccio fatica a credere ad una sola parola di quella che dice, spero mantenga i propositi di abbandono definitivo della marcia, e gli auguro, proprio per questo minimo di onestà mostrata, che sappia perdonarsi presto e ricostruirsi una vita normale. Ma guarda, invece io spero che voglia possa ancora tornare, e naturalmente senza ripetere questo giusto. Però tieni conto che la storia dello sport è piena di casi, sono tornate, lo stesso Gatling è arrivato qua, c'era Bronzo. Tu dici, un'ombra di sospetto aleggia sempre, è una macchia che non si cancella più, su questo sono d'accordo. Però attenzione, giustamente vi ricordavi prima, questi che dico, ho preso il tè alla coca, ho mangiato troppo, Non sempre, anche in casi recenti e dolorosi del sport italiano c'è stato il coraggio di riconoscere quello che è successo. Sì. Non un altro meno di questo lo fa. Sì. Intanto tra un paio di giorni ci tuffiamo in un altro doping, perché di doping siamo pieni, come mi scrive un ascoltatore a cui email poi leggerò, ci tuffiamo nel doping delle partite truccate che scorre parallelo a questa Olimpiade. Sì, questo un altro discorso, qua il calcio italiano non c'è. Sono arrivate un po' lontane gli echi della vicenda di Conte, di Bonucci, anche questo però è doping. Anche qui occorre serietà anche da parte dei protagonisti, riconoscere i loro errori e di accettare anche la punizione che ne consegue. Aldo, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Grazie, grazie ad Aldo Cazzullo. Dario Ricci, altre notizie da dare oggi? Sta per finire il triathlon. Avevamo Fabian che stava andando benissimo mentre si è perso nella corsa e quindi niente medaglia, ottima gara, al momento è nono, però di medaglia non se ne parla. Oggi che altro succede? Beh, oggi abbiamo la finale al corpo libero con Vanessa Ferrari, ore 17:23 italiane, e questa potrebbe essere sì l'Olimpiade di Vanessa, così come invece non era stata a Pechino 2008 per vari problemi, soprattutto fisici. E poi stasera direi, Carlo, entriamo ulteriormente in quello che è il momento del dentro e fuori dei tornei di squadra, perché il Sette Rosa già ci ha lasciato le penne e quindi battuto dagli Stati Uniti è costretto alle finaline dal quinto ottavo posto, che contano ben poco se non nulla. E invece alle 22 c'è l'Ital Volley di Massimo Barbolini, che affronta la Corea del Sud, squadra insidiosa, squadra sorpresa del torneo e squadra soprattutto per filosofia molto simile proprio alla nostra, e attenzione all'opposto Kim, che è quella lì alla mano pesante. Certo, il britannico Dawn Brownlee ha vinto il triathlon che si è concluso in questo momento. Joseph Aidem ha detto stamattina, dopo aver vinto la sua batteria di semifinali in maniera meravigliosa: mi è venuto da piangere quando ho saputo di Alex Schwarzer. È un lutto per lo sport italiano, penso che anche al lato umano, al dramma che questo ragazzo sta vivendo. Io invece ho un ascoltatore che si chiama Alessandro Zoppellari, che è di Rovigo, che mi ha mandato una mail che vi leggo un riassunto. È dopato tutto, dai bilanci agli stipendi dei calciatori, al costo delle case, al costo dei mutui per la casa, ai costi degli appalti pubblici. Non è doping anche il lifting o il seno rifatto oppure la corruzione? Lo hanno detto anche i capi delle istituzioni sportive italiane alla vigilia delle Olimpiadi. Prevedevamo di vincere 20-25 medaglie. Se vinci sei qualcuno, altrimenti non sei nessuno. O al meglio un anonimo sportivo. Non c'è distinzione tra sportivi di alto livello o amatori. L'atteggiamento è omogeneo, solo che è fatto a livelli diversi, ma è lo stesso. Quindi almeno per me non c'è da stupirsi, ma da preoccuparsi e incazzarsi. Poiché come istruttore di giovani calciatori devo combattere tutti gli allenamenti e le partite per educare i ragazzi ad uno sport, quello vero diverso dalla vita quotidiana. Chissà se vincerò, scrive e si domanda Alessandro Zoppellari. Allora, nel 2009, se non ricordo male, chiedo conferma della data, c'era stata questa doppia intervista, cosa molto divertente, che facevano questo giochino, che facevano alle Iene, tra Carolina Costner e Alex Schwarzer. Sentiamo questa intervista di repertorio ormai. Quella che più ti ha deluso? Deluso nessuno. Chi si è dopato? Esiste il doping nel tuo sport? Immagino di sì, spero di no. Sì. Tu ti sei mai dopato? No. Te lo hanno mai proposto? No. Cosa risponderesti? Lo denuncio. Andate a fanculo. Mai pensato che uno che ti ha battuto si dopasse? No. Sì. Andate a fanculo, dice Carolina Schwarzer, Carolina Costner. Alex Schwarzer dice no, nessuno me l'ha mai proposto, eccetera. Poi oggi, leggendo questa sua intervista, sento che altri marciatori russi gli avevano detto in faccia: guarda che noi prendiamo delle cose lì, forse lui dice, mi hanno messo un po' la pulce nell'orecchio, mi hanno un po' deviato, traviato, ma questo naturalmente non serve e non basta. Claudio, provincia di Vicenza. Salve, buongiorno. Buongiorno. Ma, guardi, mi dispiace veramente per la vicenda di Alex Schwarz. Lui ha ammesso di essersi dopato. Mi dispiace per quei giornalisti che hanno già messo in discussione il suo oro di Pechino. Sono gli stessi giornalisti che hanno lanciato addosso fango a Pantani e che dopo un paio di anni lo hanno riesaltato di nuovo. Perciò anche i giornalisti, tutti quanti, non so se anche lei, dovreste andare un po' più cauti anche a mettere in onda certe cose con la fidanzata. Quelle cose personali, lasciatele personali. Ma quali? Ha sbagliato, è vero che quali? Ha sbagliato. Quali personali? Può lasciar finire. No, mi dica quali personali, poi la lascio finire. Quali cose personali? Mi mettere già di mezzo ancora Carolina Costner. Lasciate che Carolina Costner faccia il suo percorso di atleta. Sì. Non tirate in mezzo a Carolina Costner. Ma chi la tira in mezzo? Forse qualche scalino al di sopra di tutti quanti. Ma chi la tira in mezzo? Quando prendete lei e la portate dove? A certe interviste, a far sentire certe interviste. Beh, ma queste interviste le ha fatte in maniera un po' ironica, fatto queste, in modo di tirare in questa, mezzo anche lei. No, ma non tiriamo in mezzo nessuno. Una cosa agghiacciante è io credo, sono convintissimo del fatto che Carolina Kostner, come dice lo stesso Schwarzer, non sapesse nulla, che il suo allenatore, che poi sentiremo, non sapesse nulla. Leggo anche una cosa agghiacciante in questa intervista: mi sono fatto l'epo da solo a casa di Carolina, eccetera, a sua insaputa naturalmente, a sua insaputa. Poi io di cose personali non voglio saper nulla, però questa era una bellissima storia anche personale, no? Adesso c'è un atleta che si è sporcato anche in modo idiota, perché l'EPO è ormai un vecchio arnese del diavolo in un mondo in cui ormai si parla di doping genetico, eccetera. Abbia avuto paura, credo che pensasse di non potercela fare da solo, ma in fondo le giustificazioni e le motivazioni non mi interessano. Non metto in dubbio nulla, io però ormai faccio fatica a credere a tutto. Perché l'oro di Pechino, pulito, ok, fino a prova contraria, è un oro pulito, però io alle parole di Schwarzer io faccio fatica a credere. Ma poi giustamente un'intervista televisiva è personale, è semplicemente un gioco che era stato fatto qualche tempo fa su argomenti che diventano di stretta attualità, quindi mi sembra cronaca, caro Claudio, non toccare cose personali. Emanuele, Milano. Buongiorno, signor Genta. Allora, io avrei un termine, secondo me, visto i fatti che sono successi, no? Che è ipocrisia, che non è riferita a Schwarzer, ma è riferita secondo me a tutti i giornalisti. Cos'è che? Non mi è piaciuto. Qual è il termine? Ipocrisia. Sì. Perché ipocrisia? Perché secondo me, ok, dal punto di vista sportivo va condannato. Penso che lui, come il Drake, non dovrebbe più gareggiare, no? Nelle competizioni totalmente, no? Perché secondo me chi sbaglia nello sport, che non è un qualcosa di essenziale, ma è un qualcosa che dovrebbe arricchire la società, dovrebbe arricchire, no? Sono dei giochi olimpici, secondo me dovrebbe farlo soltanto chi veramente merita. Se dal punto di vista sportivo però condanno, dal punto di vista umano, personalmente io penso anche lei utilizzare il termine fango, no? Dal punto di vista umano, secondo me io non utilizzerei questi termini, perché penso che lui ha fatto ciò che è. Beh, allora io, Emanuele, io la sento abbastanza a fatica, dal punto di vista umano, dal punto di vista sportivo, il fango e non il fango, certamente come diceva prima Aldo Cazzullo, è una lettera scarlatta che rimane sulla nostra Olimpiade, non ci sono dubbi su questo, poi chiamiamolo fango, chiamiamolo come volete, ha infangato secondo me questa notizia il giorno delle tre medaglie. Dario Ricci, sei d'accordo con me o no? Tu che l'hai vissuto da lì? Assolutamente, è diventata la notizia... la notizia del giorno, la notizia dell'Olimpiade, anzi vado oltre e ti dico pure che l'Olimpiade italiana è finita qui, perché è come se è il Maradona della marcia italiano che è stato trovato positivo. Poi è chiaro che lo sforzo e il rispetto che tutte le medaglie chiedono e meritano ci sta facendo fare i salti mortali, no? Per rimanere sulla testa, sulle gare, abbiamo visto che abbiamo parlato oggi con Giusefa, ci ha dato anche un po' un filo di speranza, no? Perché comunque è uno dei simboli di questa spedizione, ma dal punto di vista, per quello che senti dentro, l'Olimpiade è finita ieri sera. Sì, sì. Non mi pare di essere particolarmente moralista, come mi dicono molti, ipocrita, moralista, eccetera, eccetera, ma lei pensa veramente che i velocisti che hanno vinto ieri l'altro vadano a pane e acqua? La sfiga ha voluto che Schwarzer l'hanno pizzicato, io spero invece che, scontata la squalifica, torni a vincere, io farò il tifo per lui. Io no, Massimo D'Ancona, spero invece che mantenga i propositi di abbandonare la marcia, perché non ci crediamo più, non sono moralista, la mano sul fuoco non ce la metto per nessuno, però cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che così fanno tutti, che tutti sono dopati, che lui ha sbagliato le dosi o i tempi ed è stato beccato? Vogliamo fare così? Io non lo accetto, io continuo a pensare che o liberalizziamo il doping, e anche questa è una strada che secondo me potrebbe essere, liberalizziamo il doping ovviamente tra i professionisti, anche questa è una strada che potrebbe essere percorribile, che potrebbe essere percorribile e della quale mi andrebbe anche di discutere, e non sono neanche così contrario. Oppure, se ci sono delle regole, devono essere regole per tutti, e quando uno viene beccato, diventa difficile crederci ancora. Ad esempio, io a Justin Gatlin non credo più, l'ho visto vincere ad Atene, adesso si porta, corre e conquista anche un podio nei 100 metri, ma con una macchia grande sulla spalla. Andrea, Padova. Marco, devo dire che condivido... Andrea da Padova o Marco da Ivrea? Dove siamo? Chi è? Io sono Andrea da Padova. Andrea da Padova, sì. Ecco. Dicevo che questa vicenda crea veramente un'onta enorme, però credo che apra anche una parentesi interessante da valutare. Cioè, evidentemente i sistemi di controllo funzionano, quindi mi fanno pensare che ci sia qualcuno che esagera, indubbiamente, e Schwarzer è stato uno di questi, però evidentemente i controlli funzionano, altrimenti, voglio dire, sarebbero tutti sulla lista nera. Quello che non accetto è il fatto di pensare a uno sport che si misuri solo ed esclusivamente con queste cose e non con invece i valori positivi che invece queste Olimpiadi hanno tirato fuori, perché credo ci siano sport dove probabilmente tutto questo non serve, si gioca, si partecipa, poi si va alle Olimpiadi, poi si torna degli emeriti nessuno. Questo credo che sia il messaggio più positivo di questa Olimpiade. Evidenziamo queste e lasciamo stare queste schifezze che secondo me è un po' difficile, voglio dire, però, sono... È un po' difficile. Naturalmente sottolineiamo queste ed enfatizziamo queste. Enfatizziamo una giornata come quella di ieri con tre medaglie. Enfatizziamo Joseph Aidem, che è un esempio clamoroso di atleta. E sottolineiamo tutto questo, però non possiamo dimenticare che un ragazzo che era fortissimo, ci ha regalato una medaglia d'oro a Pechino, che aveva una bella faccia pulita e una bella storia, ha cercato di imbrogliare, e siamo delusi, ma io credo siamo comprensibilmente delusi e siamo comprensibilmente incazzati, questo credo io. Marco, provincia di Torino. Salve. Senta, io ho un piccolo pensiero, nel senso che secondo me, parlo di Schwarz, il fatto di essere con una donna campione che ha vinto medaglie, insomma, una cosa per... Magari lui si è sentito un po' anche forse in ombra, o si sentiva magari a livello inferiore, insomma, nei suoi confronti. E poi penso che portare dei medicinali nello sport penso che avrebbe delle conseguenze da catastrofe, penso. Grazie, buongiorno. Grazie. Questa mattina, tra l'altro, ci sono state anche le batterie dei 200 metri con il fenomeno Usain Bolt, che è tornato in pista. I tempi dei big, Lemaitre 10:34, Blake 10, allora li ho persi per un aggiornamento del computer, ve li stavo leggendo, adesso ci torno e ve li do. Allora, Lemaitre 20:34, Blake 20:38, Bolt 20:39 e Warren Weir 20:29, l'altro giamaicano. Allora, ecco una medaglia. La medaglia fresca di ieri. Devo confessare che facevo fatica a star seduto mentre guardavo quei colpi ai piattelli. Facevo fatica a star seduto, poi lo shot off, lo spareggio, l'ho visto in piedi quasi sul tavolo. Massimo Fabrizi, ciao, complimenti. Grazie a tutti. Senti, una tensione pazzesca, la tua sì, però anche la mia, consentimi. La mia e quella di milioni di italiani che eravamo lì legati a quella polvere rossa dei piattelli sbriciolati. Questo è il nostro sport, che riesce veramente a far salire tanta tensione e bisogna cercare di controllarla. Come fai? Come fai a combatterla, a controllarla? Non ci si riesce a combatterla, tantomeno a controllarla, si cerca di conviverci. E poi credo che sia anche una bella esperienza vivere questa tensione, queste emozioni, il cuore che palpita fortissimo. Dario Ricci, che hai raccontato questa gara, cosa chiede Massimo Fabrizi? Medaglia d'argento ieri alla Fossa Olimpica. Innanzitutto, oltre ai complimenti, va anche detto che lo sport è bellissimo da seguire dal vivo. È capitato di vederlo a Pechino e poi in questi giorni è veramente emozionante, come ricordavi tu, Carlo. Ecco, A Massimo chiedevo ancora questo aspetto dell'emozione, perché ieri ci ha confessato che lui ha fatto un mondiale clamoroso a Belgrado, record del mondo, eccetera, eccetera, ma quando spari all'Olimpiade, sin dal primo colpo tutto è diverso, Massimo? Cioè, raccontavi che cominci a sentire dal mattino il dolorino, il fastidio con la maglietta, il fucile che non ti si appoggia bene sulla spalla. È incredibile l'Olimpiade. È la verità, uno si allena per 4 anni, fa sempre le stesse cose, gli stessi allenamenti, le stesse gare, che poi all'Olimpiadi spari gli stessi piattelli che spari durante tutto il circuito internazionale. Eppure quando va in pedana, io, era la mia prima esperienza, il cuore batteva, le gambe tremavano, il cuore batteva fortissimo e il fucile non entrava mai sempre, e poi noi imbracciamo il fucile centinaia di volte durante le giornate di allenamento, e quindi il fucile entrava dove voleva lui, è tutto così, tutta questa emozione, tutte queste cose praticamente le posso raccontare. Senti, si conferma la nostra grande tradizione nel tiro, siamo un popolo che sa difendersi, ci scopriamo combattenti, al di là di certe polemiche che io ritengo davvero di retroguardia sull'uso delle armi ai giochi olimpici, eccetera. Giustamente ridi, caro Massimo, giustamente ridi. Rido perché sicuramente avranno fatto delle armi, praticamente qualcosa che uno ci può far male, ma il nostro sport è lo sport dove ha meno incidenti e meno infortuni, cioè non ci sono infortuni nel nostro mondo, anche perché non è che noi usiamo il fucile per spararci uno contro l'altro, noi se prende una racchetta da tennis e la dà in testa a un'altra persona può far male lo stesso, quindi per noi è un attrezzo di piacere, cioè per noi sentire i colpi del fucile è musica, quello che ascolta il violino per lui è musica, per noi è musica sentire i colpi, così è. Senti, raccontaci quale sarà adesso la tua vita normale. Io la mia vita normale è finito questi credo 15 giorni, 20 giorni, così ritorno alla mia vita tranquilla, serena e pacifica. E com'è? Scusa se sono indiscreto. Figurati, e faccio una vita normale che fanno tutte le persone comuni. Rinizierò ad allenarmi, e frequenterò sempre i miei hobby, ho diversi hobby, la pesca, il quad, mi piace andare in mezzo alla campagna col quad, i miei cani, mi piace portare in giro i cani, ho 3 cani. Come si chiamano? Uno Rocky, uno Max e uno Nerone. L'ultimo arrivato praticamente è un barboncino toy. Mia sorella, che praticamente c'è più affezionata a me che a lei. Occhio, tienili lontani dalla medaglia, No, guarda, la prima cosa che farò quando torno a casa la metto al mio cane e praticamente gliela metto subito al collo, che sicuramente è stato davanti alla televisione pure lui. Senti Massimo, ti faccio un'ultima domanda che ti spegnerà il sorriso. Ieri 3 medaglie che sono state... Io ho detto sporcate, ho detto infangate, anche se sono parole che non mi piacciono e forse non calzano, però la notizia di Schwarzer credo che abbia deluso anche te, come non avrai pianto come Josefa Idem ha detto di aver pianto, però per la spedizione azzurra è stato certamente un colpo brutto, grave, pesante. Guarda, io l'ho scoperto ieri, che praticamente me l'hanno detto quando appena finita la gara, che poi è pure un mio collega nel gruppo sportivo dei Carabinieri. Quindi io mi dispiace tantissimo per quello che è successo, soprattutto per lo sport. È una cosa che comunque sia non si fa. Credo, perché non posso io, nel nostro mondo praticamente il doping è inesistente, perché non hai hai prestazioni fisiche, ma fino a un certo livello. Però io credo che questi sport così pesanti come la maratona, forse queste volte fanno uscire fuori di testa e ti fanno fare certe cavolate che non sono accettabili, però io non so come dirlo, cioè, sì, sicuramente io se uno vince la medaglia sicuramente è meglio vincerla pulita, perché almeno sei sicuro che praticamente l'hai vinta senza imbroglio, però non so se tante le volte la fatica che fanno questi sportivi alla fine gli fa saltare questi grilli per la testa. Sì, Può essere che sia così. Mi dispiace tantissimo, perché comunque sia, io lo conoscevo perché è un mio collega, l'ho visto in parecchie cerimonie dell'arma. Purtroppo è così. Grazie Massimo, grazie davvero, in bocca al lupo. Grazie per quella medaglia che finirà al collo di Nerone, hai detto? Di Nerone. Grazie Massimo, un abbraccio. Grazie. Massimo Fabrizi, medaglia d'argento ieri nella fossa olimpica. Hai capito dove finiscono le medaglie, Dario? Sì, insomma, c'è chi mette nel forziere, ma devo dire... La statuetta dell'Oscar dove ce l'hai? Sulla mensola del bagno. La medaglia d'argento è al collo di Nerone. No, ma poi il sorriso di Massimo giustifica tutto, perché per come l'abbiamo visto ieri dopo la gara, così è come ho sentito oggi, una persona talmente genuina e trasparente che, ecco, dicendo di così ti strappa veramente un sorriso, che capisci che c'è tanto affetto dietro quel gesto, no Carlo? Sicuro. Dove vai oggi per chiudere? Cosa ci racconti? Guarda, adesso ci stiamo spostando proprio qui da Eton Dorney, che praticamente credo che sia più vicino a Manchester che a Londra, tanto per darvi un'idea, con questo bus navetta stiamo andando da Vanessa Ferrari per seguire la finale del Corpo Libero, e poi il programma in serata prevede Italia-Corea del Sud di pallavolo quindi, stasera alle 22. Sì, partita decisiva. Ieri abbiamo sentito, come poi hanno sentito anche i nostri ascoltatori nello speciale mattutino, Massimo Barbolini, fiducioso su questa sfida, perché vede un'Italia comunque in salute, preoccupa un po' la schiena di Lobianco, ma ieri l'allenamento è andato bene e tutto sommato è chiaro che Lobianco è la mente di questa squadra. Attenzione, come dicevamo all'inizio, alla Corea, perché è la sorpresa del torneo, e quindi è una squadra che, come si dice, nel mood giusto, ecco. Grazie Dario, buon lavoro, ci sentiamo più tardi. Grazie a voi, grazie, da Londra. Grazie a Dario Ricci. Io, prima di Giuseppe da Milano e Alessio da Arezzo, voglio sentire cosa ha detto ieri l'allenatore di Schwarzer, Didoni, che era per ammissione lo stesso Schwarzer all'oscuro di tutto. Una forte delusione, perché l'ho saputa direttamente dall'atleta, forse in un modo un po' puerile, proprio perché me l'ha detto dicendo: mi prendo tutte le responsabilità, senza pensare che questa mancanza di fiducia in tutte le persone che gli sono vicino, prendendo una decisione del genere, significa mettere tante persone in un vortice. Mi riferisco a tutti quelli che hanno fatto in modo che lui potesse ritornare e risalire la china per vivere quello che lui piaceva, la marcia. Non c'è nessuna giustificazione plausibile, da nessun punto di vista, e soprattutto è un esempio che mai un atleta dovrebbe dare alle persone che credono in lui. E la mia delusione adesso è proprio nella mancanza di fiducia e nell'essere stato preso in giro, per non dire altro. Intanto c'è Ricò, uno che di doping se ne intende, che ha twittato tutti gli sport dove riaggiornamento del computer, vedo, vado a ripescare, dove ci sono in giro dei soldi. In tutti gli sport dove ci sono in giro i quattrini è uguale. Per fortuna non tutte le persone, non tutti gli atleti sono uguali. Per fortuna non tutti sono come Ricò, mi dispiace davvero dirlo, come Schwarzer. Giuseppe da Milano. Sì, buongiorno dottor Genta. Buongiorno. Per fortuna non tutti i giornalisti sono uguali, bisogna dire anche questo, perché io penso che non so come fa a avere tutta questa rabbia nei confronti di Schwarzer. Forse adesso deve giustificare le merendine che compra ai figli, però io non riesco a capire, perché non ho mai sentito un giornalista parlare con questi toni, con queste parole nei confronti di uno che sbaglia. E di gente che sbaglia nello sport, mi faccia finire, perché sì, di gente... devo dire che poverino non ha ceduto alla pressione. Cosa devo dire? Mi perdoni, ma io sono incazzato a nero con Schwarzer, che è un atleta che ammiravo moltissimo. Sono deluso, non ci credo più. Anche gli sportivi in genere che guardano un po' di sport, che stanno guardando le Olimpiadi, sono molto delusi del comportamento di Schwarzer, ma io da una parte lo ammiro, perché comunque ha detto è vero, l'ho fatto, sì, questo ho anch'io. Sbagliato, mi assumo tutte questo, le mie questo anch'io. Guardi, lo sport è pieno di gente che adesso viene adorata, sì, vogliamo fare quattro nomi di faccia: Dor, Simoni, Basso, basta così, ci fermiamo. E viene adorata da chi? Adorata da giornalisti. Ma da giornalisti. Hanno detto che non hanno sbagliato. Ma allora, da giornalisti da chi? No, allora attenzione. Adorati da chi fino a un certo punto? Vediamo quelli che poi hanno preso e quelli no. Schwarzer, se ha un merito, e io l'ho anche scritto oggi, è quello di non averci presi in giro con frasi che io anche personalmente ho sentito in conferenze stampa in cui mi veniva da vomitare e che poi abbiamo dovuto vendere al pubblico come legittimo dubbio, no? Perché fino a sentenze, fino a prova contraria, tutti dovrebbero essere innocenti. Però almeno Schwarzer ha avuto il buon gusto di non dire non c'entro, non sapevo nulla, ho bevuto il tè alla coca che ha portato mia zia dalla Colombia, che in riferimento a Simoni, anche in questo caso è casuale, non è casuale, era nello shampoo, era nel bagno schiuma, era nello spray che prendo per l'asma, che chissà mai, come mai ci sono così tanti sportivi affetti da asma, nella pomata che ho usato per curarmi un'infezione, ce l'avevo nel frigorifero ma giuro non l'ho mai usata, c'è un errore, un complotto, uscirò pulito, almeno tutte queste porcherie Schwarzer ce le ha risparmiate ed è una senz'altro un attenuante, senz'altro qualcosa che ammiro molto di Schwarzer. Ciò non toglie la mia rabbia, questo non è in grado di lenire la mia rabbia nei confronti di uno sportivo nel quale credevo e che ammiravo moltissimo e che ha imbrogliato ed è un ladruncolo qualunque oggi. Alessio Arezzo. No, io mi attacco un po' alla telefonata precedente, ero abituato a sentire Garanzini, un altro stile, un'altra scuola, perché sì, non avrebbe mai crocifisso, come ha fatto lei, Schwarzer, che non, voglio dire, ha sbagliato, bene, ma la sua rabbia, che già prima diceva, almeno ci ha risparmiato tutto il teatrino e tutto, eccetera, però rabbia con lui, bene, l'ha crocifisso, sì, ora che l'ha crocifisso, credo sarà contento, abbastanza. Però si risenta alla trasmissione di oggi, cosa ha affermato verso le 14 e 23, dicendo, ma sarei anche d'accordo verso un doping controllato nello sport professionistico. Sì, sì, lo confermo. Cioè, almeno un minimo di coerenza, lo confermo. No, io non crocifiggo nessuno. Io sono per un dibattito che si può fare sul doping libero. Lo liberalizziamo, se ne è parlato anche da atleti, ex atleti, lo liberalizziamo, allora rendiamo tutti uguali, oppure ammettiamo i truffatori e magari cerchiamo anche di giustificarli o di non crocifiggerli o di dire poverini o di cercare mille ragioni. Cosa devo dire? Che Schwarzer ha fatto bene a farsi di EPO? Devo dire del questo? Genere. Eh? No, lei non può crocifiggere Schwarzer, no, e poi dire una cosa del genere. Ma che cosa devo dire? No, che... non dica una cosa del genere. Ma in che senso? O lo crocifigge perché lei si sente un santo inquisitore. No. Ha tentato di imbrogliare. Alex Schwarzer ha tentato di imbrogliare in un gioco in cui non si imbroglia. Ok? Allora, vogliamo cambiare le regole? Vogliamo vedere il massimo delle prestazioni umane possibili? Perché vogliamo questo? E allora facciamo una discussione seria sulla liberalizzazione del doping, che è l'estremo opposto. Se invece giustifichiamo i truffatori, allora se volete giustificare i truffatori, fatelo pure, io non lo faccio. Grazie Alessio. Rimango in tema doping e altre cose, non c'entrano in questo caso sostanze, ma c'entreranno sentenze. Saluto e ringrazio molto Alberto Polverosi del Corriere dello Sport. Ciao Alberto. Salve, buonasera. Mi dicono che ho crocifisso Schwarzer. Forse non avrei dovuto. Non ho sentito, non so. No, ma ho semplicemente detto che insomma che ha cercato di imbrogliare e che io sono molto arrabbiato perché lo ammiravo, semplicemente questo. Che vuoi che devi dire? Quasi una banalità, nel senso che mi sembra... Che devo dire? Che ha fatto bene, poverino, l'ha beccato. Mi sembra che lui stesso sia pentito, cioè di più, sì, sia costernato, sembra una cosa veramente brutta, bruttissima, e purtroppo ci cadiamo spesso, questa è la realtà. Certo. Devo dire, se posso brevemente intervenire sull'argomento, che conosco poco, sia ben chiaro, se non da lettore, certo, e mi sembra assennata la decisione del CONI di cacciarlo subito, ecco, immediatamente, senza discussione, sembra in linea con un'idea di sport che speriamo possa andare avanti anche dopo questi casi, ecco. Senti, invece, andando a bomba, voi oggi sul Corriere dello Sport anticipate una possibilità, che è quella, e vorrei capirne di più, di uno stop di 10 mesi per Antonio Conte, e tu scrivi che ci potrebbe essere un'ipotesi Prandelli in questo senso. Ma Bonucci potrebbe andare verso una soluzione addirittura, perché? Ma da quanto ne sappiamo, ovviamente sono anticipazioni, quindi non c'è nessuna certezza in questo caso, ma da quanto ne sappiamo, elementi contrari a sfavore di Bonucci, elementi veri, autentici, probanti, non ne sono stati rintracciati, e questo sarebbe il motivo per cui Bonucci potrebbe andare verso la soluzione. Per quanto riguarda Prandelli, visto che questo mi riguarda in prima persona, posso dirti che l'idea non è di oggi, della Juventus, cioè della Juventus, o meglio di una parte di entourage della Juventus. Credo che sia difficile comunque da realizzare, l'idea esiste ma difficile da realizzare, perché Prandelli è commissario tecnico della Nazionale, ecco, e prima di arrivare a Prandelli, prima di poter parlare con Prandelli, la Juventus deve passare ovviamente dalla federazione, come, certo, come dovrebbe fare in qualunque altro caso di allenatore già tesserato per un altro club, quindi deve passare dalla federazione. I rapporti fra Juventus e federazione sono quelli che tutti conosciamo, quindi insomma è molto molto complicata la cosa. Esiste questa idea, ecco, questo era il senso esiste questa possibilità, anche se deve passare da attraverso 3-4 ostacoli che oggi sembrano difficili da superare. Certo, che significato ha in tutta questa vicenda l'addio di Stellini? Ma è un significato, se lo prendiamo in superficie, è chiaro che è un gesto giusto, francamente giusto, di un professionista che, per evitare di inquinare in qualunque modo l'immagine, il lavoro della propria azienda, decide di dimettersi, e siccome le dimissioni in Italia sono per lo più oggetto di non curate, nel senso che nessuno mai ci pensa, bisogna secondo me apprezzare comunque il gesto. Dietro questo gesto ovviamente c'è un momento di grande imbarazzo da parte della Juventus, grandissimo imbarazzo, certo. Che riguarda non solo Stellini, ma riguarda anche Conte, riguarda le dichiarazioni di Agnelli della settimana scorsa contro la federazione. È un momento difficile, sembra quasi che la Juve non riesca, suo malgrado, sia ben chiaro, a uscire dalle peste di Calciopoli, perché il marchio, come dire, l'origine di tutto, l'origine filosofica, se vogliamo usare questo termine, è sempre quella, è sempre Calciopoli, è sempre la sofferenza, il patimento, le squalifiche di Calciopoli. È un filo nero che congiunge tutte queste situazioni. Un filo nero in cui la Juventus in questo caso c'entra zero. Perché sì, no, in questo caso meno di zero. C'è entrata, c'è voluta entrare la Juventus, e credo anche doverosamente, per difendere un proprio tesserato che peraltro è l'allenatore che ha portato, che ha riportato lo scudetto a Torino, lo scudetto alla Juventus. Quindi c'è entrata per questo verso, ovviamente, non è cioè, certo, la Juve non c'entra più. Io infatti ho parlato di una linea, un continuo filosofico di quanto è successo. La matrice arriva sempre, è sempre quella, cioè noi ci possiamo girare intorno, sono casi completamente diversi, allora la Juve era dentro fino al collo, adesso la Juve non c'entra per niente, ma c'è sempre, la Juve è come se non riuscisse per a tagliare quel filo nero. Esatto, a metabolizzare quel grande, terribile trauma e a venire fuori. Ecco, se Conte fosse stato l'allenatore dell'Inter o della Fiorentina o del Bologna, è chiaro che per la Juve non sarebbe successo niente. Oggi invece ritornano i tempi di Calciopoli. Ritornano i fantasmi. Grazie, esatto. Alberto. Grazie. Prego. Grazie, grazie. Buon lavoro ad Alberto Polverosi. Michele, provincia di Livorno. Abbiamo ancora 4 minuti per gli ascoltatori. Michele, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire in merito al caso di Schwarz. Sì. A quello che aveva detto l'ascoltatore precedente per la crocifissione. Ma io sinceramente sono abbastanza d'accordo con lei, e più che altro non mi meraviglio più di queste cose, diciamo, ultimamente ho smesso anche un po' di seguire lo sport in vari settori, anche perché ritengo che il doping sia una cosa molto diffusa. Sì. Il doping è purtroppo una cosa molto diffusa. Per fortuna in Italia, soprattutto i controlli antidoping, la politica dell'antidoping è qualcosa di serio. In altri paesi, e non mi faccio dire la Spagna perché è fin troppo facile, sono poco più che una burla. Gli stessi sportivi sono costretti dalle nostre parti ha una vita monitorata, a vivere in libertà condizionata, tra virgolette, perché sapete che devono comunicare gli spostamenti, essere sempre reperibili, essere pronti a controlli, insomma, è qualcosa di costringente fare lo sportivo oggi. E i controlli sono per fortuna molto seri. A me non sembra di aver crocifisso nessuno, semplicemente sono molto deluso, non me l'aspettavo da un atleta come Schwarzer. Che volete che vi dica, anche questa è una enorme banalità, mi sono forse fidato di quella faccia pulita, però oggi sono arrabbiato con lui perché ha tentato di imbrogliare, come sottolinea qualche ascoltatore via SMS. Questo non ha sbagliato, ha premeditato e reiterato, e se smetterà lo farà solo perché è stato beccato, scrive un ascoltatore. Matteo, provincia di Lecco, poi chiudiamo questa puntata non simpaticissima. Dica, Matteo. Buongiorno, signor Genta. Buongiorno. Volevo solo aggiungere una precisazione a un precedente ascoltatore che ha puntato il dito contro Basso. Ma ricordiamoci che Basso non è mai stato trovato positivo. Sono state trovate delle sacche ematiche durante l'operazione Puerto, sempre riferente a questo pseudo scienziato Fuentes. Sì, dottor Fuentes, e di conseguenza praticamente tutto torna al discorso che stavo facendo lei sulla Federazione Italiana, Federazione Spagnola a livello di doping e tutto lì. Sì, anche poi Van Basso ha però ammesso di aver tentato di imbrogliare. Questo è, insomma, sono discorsi molto ampi e complessi che portano in diverse direzioni. Io resto convinto che le squalifiche dovrebbero essere molto più pesanti, che le pene potrebbero anche essere draconiane, oppure sul versante completamente opposto si potrebbe davvero aprire un discorso alla liberalizzazione del doping per gli atleti professionisti, se vogliamo il massimo dello spettacolo possibile. Ci fermiamo, grazie a Franco Piantanida in redazione, a Matteo Comes in regia, ci sentiamo domani alle 2:00.